Allora, quest'anno il fatturato degli Alien Sapienza, mamma mia, è andato veramente, veramente male. Sì, Tina, dimmi. Signor padre, le volevo dire due cose. Sì, Tina. Uno, c'è un vecchio qua che chiede di lei, non so chi cazzo sia. Un vecchio? Fallo entrare. Sì, va bene. E la seconda cosa? Posso andare in bagno? Porca di una puttana vacca! Tina, quante volte te lo devo dire che non puoi chiedermi di poter andare in bagno? Vai in bagno, vai in bagno! Mario! Nonno, che cosa tu ci fai qua? Cioè, sono scappato da quella cazzo di casa di cura di merda! Ma perché sei scappato dalla casa del Sacro Cuore in fiore con l'amore della stella superiore dell'Orsa Maggiore? Ma cosa dici, Mario? Dai! Nonno, tu hai l'Alzheimer! Ah, non ho l'Alzheimer, ma mi ricordo bene di quei giorni in Vermont! Nonno, tu non sei mai stato nel Vermont! Ma cosa dici? Te l'ho sempre raccontato! Dal 1885 che... Non ero neanche nato nel 1985, nonno! Certo che ero nato, col mio smartphone giravo il Vermont! Allora, ascolta, nonno, sono impegnato perché ho tre cretini che mi stanno facendo impazzire! Guarda, hai detto tre cretini, mi viene subito in mente un vecchio film che guardavo in Vermont. Non c'erano i film in Vermont, Sergio. Certo che c'erano, il buono, il brutto e il creativo. No, erano il buono, il brutto e il cattivo. No, ti stai sbagliando, caro nipote, era il buono, il brutto e il creativo. Allora, cretino, era il buono, il brutto e il cattivo. No, ma che cosa dici, nipote di merda?